16 dicembre, seconda parte. Allora, questa differenza, cioè soprattutto il fatto che i sistemi di immagini operino, diciamo, basino il loro effetto sull'osservatore, sulla somiglianza con gli oggetti, in qualche modo, crea un'ulteriore differenza con l'effetto che hanno sugli esseri umani, l'effetto che sugli esseri umani ha il linguaggio, che non è immediatamente percepibile o non è stata immediatamente percepita dagli esseri umani nel corso della loro storia, e che ha cominciato a essere percepita in maniera più chiara soltanto nell'età moderna, neanche all'inizio dell'età moderna, insomma soltanto fra 800 e 900. Però se noi guardiamo le cose retrospettivamente, ci rendiamo conto che anche se le culture non sempre ne sono state consapevoli, in realtà, come dire, c'è stata, fino da quando è comparsa l'immagine nel senso diciamo, di un artefatto costruito su una superficie bidimensionale, c'è stata una sorta di competizione tra l'immagine e la parola per catturare l'attenzione degli esseri umani e per costruire all'interno di ogni essere umano o di ogni gruppo di esseri umani, quindi di ogni società, anche molto ristretta numericamente, diciamo, per costruire i sistemi sociali o le basi di rappresentazione, le basi rappresentative di differenti sistemi sociali. Come la possiamo mettere? Possiamo metterla con una consapevolezza attuale, contemporanea, quindi non senza riferire questa osservazione agli esseri umani delle culture che ci hanno preceduto. Ma adesso noi possiamo dire che le cose più o meno si possono descrivere in questo modo. Per il fatto che si basa sulla somiglianza e sul ricreare su di una superficie bidimensionale qualche cosa che invece occupa uno spazio tridimensionale, quindi l'effetto di illusione, perché è una illusione, ed è una illusione del senso della vista. L'immagine dipinta o disegnata illude il senso della vista, cioè crea nell'uomo una percezione. L'essere umano, anche se è consapevole in qualche modo che il bisonte disegnato o dipinto sui muri della caverna non è la stessa cosa di un bisonte vero, di quello che ha incontrato il giorno prima o la settimana prima, o a cui ha dato la caccia, di quello a cui vuole dare la caccia. Adesso poi vedremo quali sono le ipotesi su questi sistemi di immagini. Però, in qualche modo, crea una illusione. L'illusione significa che l'uomo viene preso in un in un meccanismo, in qualche maniera, nel momento in cui guarda l'immagine, di almeno temporanea sospensione della realtà che lo circonda, per focalizzare la sua attenzione e la sua vista, che è il senso fondamentale con il quale gran parte dei mammiferi, ma soprattutto gli esseri umani con la stazione eretta, è il senso con il quale prevalentemente noi ci orientiamo nello spazio e diamo bene. La contemplazione, guardare una immagine per un uomo contemporaneo, per un uomo cosiddetto primitivo, per un uomo delle culture orali, per esempio dei tempi di Lascaux, contemplare le immagini sulla caverna significava, almeno per un breve istante, sospendere o mettere tra parentesi, mettere da un lato l'esistenza del mondo esterno reale, quello tridimensionale, quindi l'interno della caverna davvero, dimenticarsene almeno per un attimo e venire preso in una specie di circolo, di cerchio, di fascinazione in qualche maniera emesso dall'immagine. Cioè era come se quell'immagine emettesse una sorta di, diciamo, richiamo, no? Che si può definire col termine di fascinazione, che faceva anche per un breve periodo, per qualche istante solo, magari solo per qualche attimo, non mettere in dubbio l'esistenza, ma mettere tra parentesi l'esistenza del mondo esterno per concentrare la propria vista su quello che vedeva in quel momento. Vedremo poi quali significati, probabilmente, perché non abbiamo ovviamente dei dati sicuri, attribuiva l'uomo del Paleolitico superiore a quelle immagini lì. Un eventuale effetto simile di fascinazione lo produce forse anche la parola, ma ad uno stadio successivo. Mi spiego. Anche queste sono largamente congetture, però se il linguaggio umano, almeno in parte, ha la stessa funzione dei sistemi di comunicazione reciproca tra le altre specie animali, in modo particolare tra quelle specie che sono a noi più vicine, come per esempio i primati antropomorfi, quindi scimpanzé, gorilla, orangutan. Il linguaggio sembrerebbe nato forse non solo per comunicare, ma insieme per comunicare effetti di natura pratica, per fare domande, chiedere informazioni, offrire informazioni sul mondo reale, o su previsioni sul mondo reale, su ipotesi sul mondo reale, comunque, o per esprimere immediatamente stati d'animo, sensazioni, sentimenti, affetti, no? Della vita di relazione tra i membri del gruppo, del piccolo gruppo che rappresentava in quei periodi, nel Paleolitico superiore, probabilmente la società umana, cioè piccoli gruppi di cacciatori, raccoglitori, nomadi, non ancora stanziali perché ancora non era stata inventata l'agricoltura, quindi siamo 36.000 anni, 40.000 anni fa, 45, 40, 33.000 anni o 47.000 anni prima di Cristo, insomma, l'agricoltura sarebbe venuta molto tempo dopo. L'agricoltura comincia a nascere fra i 10.000 e i 7.000 anni fa, fra i 10.000 e i 7.000 anni prima di Cristo, quindi tra i 12.000 e i 9.000 anni fa, e i primi documenti fossili che noi abbiamo di attività agricole sono più o meno di quel periodo, le prime città, cioè i primi agglomerati urbani, quindi la prima volta che noi sappiamo che alcuni gruppi hanno smesso di seguire diciamo, i branchi di animali che cacciavano, o le piante che davano frutti in tempi diversi, quindi questa era la vera ragione per il nomadismo di popolazioni di questo tipo, e hanno cominciato a abitare consecutivamente per tutto il tempo delle piccole cose che oggi chiameremo poco più che villaggi, ma che rappresentano le prime città. La città non nasce prima dell'agricoltura. All'epoca di Lascaux siamo molto prima di questa, quindi siamo ancora. Bene, quindi mentre l'immagine che nasce, ripeto, per quello che possiamo saperne o capire, chissà se molto o un po', ma insomma non nello stesso momento in cui nasce, in cui si stabilizza un sistema linguistico e quindi l'uomo diventa quello che è, Homo sapiens. Sicuramente c'erano già stati anche prima, però non è che fosse il linguaggio nasce. Comunque non potremmo saperlo questo, quindi facciamo l'ipotesi anche più estrema, cioè che Homo sapiens sia l'unica specie esistita, dotata di linguaggio. Anche in questo caso, quando è nata l'immagine è nata fin da subito, è stata associata ad una esperienza particolare, straordinaria. L'esperienza dell'immagine è un'esperienza straordinaria per gli esseri umani. Se noi potessimo sapere qual è la prima immagine, supponiamo che sia quella del bisonte, non possiamo sapere se è la prima, ma la prima volta che un essere umano, uno o più, un essere umano, perché non sappiamo se fosse solo uno, chi si è trovato a provare a, e chissà quanti tentativi ci sono stati prima, che hanno dato esito, infruttuoso, ma alla fine, dopo un po', supponiamo, è tutta una palla, non esiste nel problema, si è stato di un lungo processo continuo, non... Adesso stiamo discretizzando un processo continuo, ma insomma supponiamo di poter dire che c'è stata una prima volta in cui a un certo punto a uno gli è riuscito di fare un bisonte somigliante. Cazzo! Lui è rimasto fulminato di fronte a quell'esperienza, lui che l'ha fatta, e tutti gli altri che o erano intorno a lui mentre lui la contraceva, o sono venuti dopo a vederla, sono rimasti fulminati. Non si era mai vista una roba del genere prima. Mai prima che qualcuno gli venisse questa folle idea si erano visti bisonti emergere dalla parete di una caverna. È difficile dire che l'esperienza del linguaggio abbia dei momenti simili. La significazione, cioè il processo di significazione del linguaggio, avviene in maniera così continua, così impercettibile per gli esseri umani, nessuno si accorge probabilmente di fare qualcosa che gli altri prima di lui non hanno fatto. Non c'era l'essere umano che ha parlato per la prima volta, ripeto che non c'è questo essere umano, non esiste, ma se ci fosse stato, l'essere umano che ha parlato per la prima volta non poteva confrontare la sua esperienza di dopo aver parlato con quella prima di aver parlato o con quella degli esseri umani prima di lui che non parlavano. Non ce n'è naturalmente, ma se ci fossero stati. Quindi l'impressione e il linguaggio che nasce per esigenze o comunicative e o espressive, così legate all'esperienza quotidiana, ahi, mi sono fatto male, guarda quel tramonto com'è bello, che ci saranno detti anche questo, che ne so, oppure senti, domani quel caribù, quando andiamo a fare la caccia ci mettiamo io e te insieme sulla riva del fiume, e gli altri due si mettono sull'altra riva, cioè, e discuti insieme, sono cose collegate con l'esperienza quotidiana, non possono avere immediatamente lo stesso effetto di meraviglia, che fa il vedere una cosa così totalmente nuova. Questo significa di fatto, poi certamente il linguaggio è servito anche a cose di questo tipo, ma con uno sviluppo, come dire, successivo è sempre dovuto a una attività, diciamo, che si è sviluppata giorno per giorno, poco per volta, che è nata da una esperienza quotidiana degli esseri umani. L'immagine non può essere nata, l'immagine ha significato una rottura nell'esperienza anche di chi l'ha fatta per la prima volta, se c'è. E anche perché il linguaggio è più immediato. Se c'è un codice inteso da tutti, il linguaggio è più immediato per il disegno. Sì, non solo più immediato, ma ripeto, il modo in cui si è sviluppato, il modo in cui è nato, lo ha ancorato fino da subito all'esperienza di tutti i giorni. L'immagine ci avrebbe messo molto tempo per... È chiaro che adesso non è più così. Già dai tempi dell'antica Grecia, già nell'antica Grecia in qualche maniera l'immagine era qualche cosa di, virgolette, quotidiano, ma ancora di più poi, e da questo punto di vista non c'è tantissima differenza tra la Grecia classica o Roma classica e il Medioevo avanzato. Qualcosa cambia con il Rinascimento, ma soprattutto le cose cambiano nell'Ottocento, quando non solo nasce prima la, come la fotografia, ma poi soprattutto nasce una tecnica per riuscire a stampare la foto su carta, diciamo, normale, quindi nascono i rotocalchi. Siamo negli ultimi anni dell'Ottocento, gli ultimi decenni dell'Ottocento. Quindi è negli ultimi decenni dell'Ottocento che l'immagine diventa ancora più... Però era come dire, il terreno era stato già, come dire, preparato a lungo. Ma sicuramente, comunque, tutto questo non può essere precedente all'invenzione della scrittura, quindi non può essere precedente all'incirca 3.000 anni prima di Cristo, e quindi per un lungo periodo, da quando nasce l'immagine a quando nasce quel particolare tipo di immagine diversissimo chiamato scrittura, diversissimo entro certi limiti, perché nelle pittografie, ideografie, e la scrittura, diciamo, cinese ancora oggi conserva un rapporto con quella, con una lontana origine figurativa, cioè in cui i segni della, le migliaia di segni della scrittura, diciamo, cinese hanno un, diciamo, riferimento all'origine, come dire, pittografica, ma poi a poco con tutti gli altri sistemi ci siamo allontanati rapidamente da una referenzialità iconica, non sono più icone nel senso che rimandano anche in maniera lontana, ma sono segni anch'essi totalmente arbitrari come quelli di cui stiamo parlando. Allora, il succo è che l'immagine è sino dall'inizio collegata a un effetto di meraviglia e di fascinazione negli esseri umani che ne fa probabilmente uno strumento o un elemento, diciamo, in senso lato religioso. Sono state fatte moltissime ipotesi su queste pitture paleolitiche, su queste pitture rupestri del Paleolitico superiore. A che cosa servivano? Sono state, come pensa Bataille in un libro del 55, pubblicato da Schira nel 55. Questo è un'analisi di Bataille. Bataille è un filosofo francese molto noto, morto negli anni 60, quando è morto Bataille? Nel 62, sì. Quindi diversi anni prima. Il quale scrive un libro divulgativo, perché insomma, gli hanno chiesto il libro divulgativo, ma lui evidentemente scrive. E lui, in questo libro, Bataille sostiene che lui, analizza Lascaux, insomma, le pitture di Lascaux sono la nascita dell'arte, in senso quasi moderno, è un anacronismo, insomma, fottuto, diciamo, dal punto di vista storico è una ipotesi che non regge, non è arte nel senso nostro. Però però potrebbe essere, diciamo, prendiamo in considerazione l'ipotesi che anche senza chiamarla arte, in qualche modo però, che quelle immagini abbiano rappresentato l'emergere per la prima volta di una attività che noi oggi chiameremmo estetica. Dipingere delle immagini in qualche maniera per il gusto di, diciamo, dipingerle, perché si fa un tentativo, qualcuno evidentemente ha precedentemente un'intenzione di fare qualcosa e dice: ah, ci provo, lo faccio, vedo. Diciamo questo, è poco plausibile, però certamente gli esseri umani non sono persone, non sono esseri così, come dire, sappiamo che, insomma, che è una specie diciamo animale dalle caratteristiche un po' diverse da quelle dei suoi, diciamo, cugini più vicini, appunto i primati superiori. È una specie che non solo parla, non solo ha un sistema di comunicazione e di espressione incomparabilmente più complesso e più, diciamo, creativo di quello dei propri, diciamo, cugini, ma insieme con questo, e probabilmente le cose sono collegate, è un animale capace di costruire oggetti tecnici, artificiali, e questo anche l'uomo è da straordinario. Cioè, di questo siamo sicuri che l'essere umano non è stato il primo che ha cominciato a scheggiare ciottoli. Scheggiavano ciottoli gli australopitechi 1,5 milioni di anni fa, quindi ben prima che ci fosse Homo sapiens. Questa, come forse vi ho già detto, è la ragione per la quale io personalmente e molti altri antropologi sono propensi a pensare che l'uomo non sia stata la prima specie che ha parlato. Se linguaggio e tecnica sono così strettamente associati nella nostra esperienza di specie, di Homo sapiens, perché entrambi condividono un atteggiamento progettuale verso il mondo, sia mettersi lì e scheggiare un ciottolo, sia usare uno strumento così complesso come il linguaggio, presuppongono la facoltà negli esseri umani di immaginare in maniera diciamo creativa una particolare modalità di successione di eventi futuri, quindi non ancora vedibili, non ancora sperimentati, che potrebbero quindi avere un senso del possibile maggiore di quello che nessun'altra specie animale ha. Non che altri animali non abbiano questo, sicuramente tutte le scimmie hanno embrionalmente qualche cosa del genere, se no non imiterebbero, ma molti altri animali imitano. Però nell'uomo questa cosa acquista una, diciamo, dimensione di gran lunga maggiore rispetto agli altri. E l'atteggiamento di fondo, cioè l'atteggiamento della immaginazione progettuale, è quello che fonda sia il linguaggio che la tecnica. Quindi è difficile pensare che per così lungo tempo questi nostri progenitori, quindi gente che non era Homo sapiens, erano alti 1,50 m, 1,20 m, 1,30 m i primi, molto più pelosi di noi, come ovvio, stazione eretta, ma camminavano ancora come se si ricordassero di quando andavano a quattro zampe, eccetera, eppure già scheggiavano ciottoli. Avrà potuto resistere 100.000, 200.000 anni senza parlare, ma è impossibile che tra il 1,5 milioni o forse anche 2 milioni di anni in cui compaiono questi astropiteti e i 250.000, 300.000 di Homo sapiens sia il primo, già adesso parlo, cazzo. Non è plausibile, insomma, è molto più plausibile che anche questi parlassero. Bene. Ma questa facoltà di astrazione, diciamo, è paragonabile a una metafisica, una primordiale, no? C'è una capacità a livello di pensiero, di ragionamento, è semplicemente, cioè, anche a prescindere dalla sopravvivenza fine se stessa. Allora, questo è però certo, ho capito quello. Ma questo è legato anche al punto di vista della religione, allora adesso però vediamo che tipo di religione era, perché no? Sì, no, perché noi parliamo di religione, ma l'ipotesi più probabile che è stata fatta era che questi animali avessero un significato simbolico, nel senso di facciamo dei riti per assicurare, sappiamo che là fuori c'è un bisogno, abbiamo già visto, bellissimo, bello grasso, brolo, però cazzo corre, cammina lontano, gli abbiamo già fatto due o tre capo, non è stato, è come se fosse una preghiera a nessun Dio, non c'è ancora l'idea di Dio, però c'è l'idea di dire, facciamo cosa, facciamo una, diciamo, effigie di questo animale qua, e gli facciamo per fare in modo che la caccia, cioè riti di propiziazione per la caccia. È una dimensione di tipo religioso, ma non implica ancora forse alcun sistema religioso in quanto tale. Non è come dice metafisica. Allora, per fare la metafisica ci vuole intanto un linguaggio di impatto, ci vuole la scrittura e probabilmente ci vuole la scrittura alfabetica. Non che i cinesi non avessero, però guarda caso i sistemi culturali dei cinesi, che hanno una scrittura totalmente diversa dalla nostra, non hanno mai prodotto, sino alla comparsa del taoismo, quindi grosso modo nello stesso periodo in cui in Grecia nasceva la filosofia, in Cina nasce questa polarizzazione tra i due grandi sistemi concettuali che sono il confucianesimo e il taoismo. Allora nasce. Ma anche lì ci sono voluti millenni di maturazione. In Occidente la cosa è quasi, voglio dire, sicura. La filosofia nasce in Grecia, cioè nasce nell'unico popolo che ha inventato un sistema di scrittura integrale. Alfabetico vuol dire che è il primo sistema che simbolizza esattamente tutti i suoni che l'essere umano produce e li simbolizza uno per uno in quanto tali. Quindi è un sistema di scrittura che favorisce una analisi, una analiticità, mentre i sistemi di scrittura pittografico, idrografico, ma in parte anche quelli sillabici e quelli consonantici poi soprattutto, non sono così analitici come quello alfabetico. E la filosofia nasce da questa analiticità del sistema di scrittura. Poi sicuramente non ci sarà stato solo quello, ci sono state una serie di altre ragioni, però insieme nasce una cosa inedita per tutti i popoli dell'antichità, che è il sistema democratico. I sistemi democratici c'erano chiaramente prima che ci fosse l'agricoltura. Non ci sono, ma perché prima l'agricoltura non ci sono sistemi politici nel senso che siamo noi, sono i gruppi umani sono fatti, intanto sono piccoli, sono meno di 100 persone sicuramente, perché in più di 100 non puoi sopravvivere con modalità, diciamo, di nomadismo entro aree ristrette, non tanto grandi, perché poi, come dire, nomadismo non vuol dire che vai per i cazzi tuoi, in realtà ogni anno percorri più o meno lo stesso giro, ma segui gli animali, segui le piante, segui le varie stagioni e poi risolvi come erano, come sono in parte, come era, adesso non c'è più, cioè, gli aborigeni dell'Australia che prima che arrivasse l'uomo bianco erano alle loro, non conoscevano la cultura, quindi erano ancora o come erano in America, del Nord America, non gli Inca, cioè, che erano tutti per. Non conoscevano né cavallo, niente, non conocevano neanche l'agricoltura, facevano solo caccia e raccolta. Quindi torniamo a noi. Allora, l'immagine fino all'inizio è collegata con questo senso del diciamo, meraviglioso, la meraviglia, la fascinazione, e probabilmente, non possiamo essere sicuri, ma molto probabilmente, quindi l'immagine aveva fin da subito l'intenzione forse, ma se non una intenzione cosciente, sicuramente l'effetto, cioè sembrava a questi esseri umani che l'immagine potesse avere, insomma, diciamo la parola come deve essere, avevano una funzione magica, erano oggetti magici. Servivano per creare una analogia, ma perché potevano farlo? Perché l'immagine è fatta così, perché? Perché quel bisonte lì somiglia a un vero bisonte, no? Poi da questa cosa è possibile che siano venute fuori i mantra, le robe, le... ma la parola probabilmente prima dell'immagine era difficile che avesse un senso di quel genere. Sicuramente la parola però, quale sicuramente prima dell'immagine, aveva da lungo tempo un'altra funzione, certamente. Qual era questa, diciamo, funzione? Sicuramente da una possibile o supposta origine di tipo pratico quotidiano, diciamo il linguaggio è, c'ha questa caratteristica, insomma. Il linguaggio è uno strumento sovradimensionato per gli effetti pratici. È troppo potente, troppo potente. Pensare che serva solo per chiedersi che ore sono, dove sta Piazza Castello, o se c'è sciopero domani, o anche per mandare a qualcuno uno che si è passato il piede, è troppo poco. Per fare tutte queste cose non occorrerebbe il linguaggio, si possono fare anche con sistemi di comunicazione molto più rudimentali come quelli che hanno le scimmie, antropomorfe, che vivono in gruppi più o meno, se non di 50, 60, di 20, 30 individui di vario sesso, e hanno una ricchezza di relazioni sociali e di comunicazione reciproca comparabile alle cose che abbiamo detto adesso, non siamo l'equivalente di Piazza Castello nella giungla, nella giungla diciamo, pluviale, ma insomma... diciamo non occorre il linguaggio. Quando hai in mano uno strumento così potente come il linguaggio, puoi fare un sacco di altre cose, e se le puoi fare è indubbio che tu le fai. E che cosa puoi fare in modo particolare? Allora, per tutto il giorno certamente hai andato in giro, hai cacciato il bisonte, hai raccolto le bacche, ti sei spulciato con la tua compagna, come fanno le scimmie, ti sei coccolato, hai ruzzato, ti sei incazzato col tuo coso, ti sei picchiato, hai fatto una serie di cose, e il linguaggio è. Poi viene la sera, hai già inventato il fuoco, perché il fuoco è molto antico. È molto antico. 50. Esatto, siamo forse 100.000 anni fa, ma per un periodo è stato senza, l'uomo, perché il fuoco è una cosa, diciamo, relativamente recente. Ma supponiamo che il fuoco ci sia già. Allora c'hai il fuoco, hai ammazzato due o tre capretti con quelle belle lance fatte con un ramo lungo, una punta di pietra bella aguzza legata, queste sono cose che fai da centinaia di migliaia di anni, non ci pensi neanche più, ormai sono robe rapidissime. C'hai due capretti e li hai arrostiti perché c'è il fuoco, quindi hai già cominciato a imparare che i cibi non si mangiano più solo crudi. Ma anche se tu li mangi crudi e c'hai il fuoco, perché ancora non hai scoperto che col fuoco puoi rendere i cibi più appetitosi o più digeribili o più che cazzo sia, e non c'hai sonno subito. Non ti viene da dormire subito. Qualcuno scopa, vabbè, qualcuno fa cose sicuramente piacevoli, ma insomma. Quelli più giovani che non scopano, quelli più vecchi che non scopano più per altri motivi. Che cosa fai intorno al fuoco? Stai lì, senti rumori, hai cominciato ad addomesticare i primi lupi, perché anche questa delle specie domestiche è molto antica, è molto vecchia, è molto precede di molto della cultura. Il gatto no, i felini forse dopo, ma i cani sono stati i primi, i cani non sono altro che lupi addomesticati, che poi hanno dato vita poco a poco ad una specie animale totalmente diversa che non c'era prima che ci fosse l'uomo. Il cane non c'è prima che ci sia l'uomo, c'è solo il lupo, ci sono le varie specie di lupo, poi il cane arriva dopo, è una specie dovuta ad un processo di domesticazione. Ditemi cosa fanno questi paleolitici, che voi inventate come molti, non erano mica rozzi, erano sofisticati per certi versi tanto quanto noi. Che cosa fanno? Si raccontano le storie, perché hanno il linguaggio, se raccontano le storie. Si cominciano a raccontare delle storie quotidiane. Attenzione, ovviamente le prime sono state quelle che gli erano davvero capitate, hai visto quello, ma sì, va. Il linguaggio però, come è fatto? L'immagine anche può farlo, certo, ma il linguaggio lo fa in modo 100 volte di più. Voi sapete benissimo, adesso io ti racconto a te una storia di una storia qualsiasi, di una storia con una mia fidanzata di 20 anni fa, te la racconto, quando ha fatto il giro di 10 persone è è totalmente diversa, è cambiata totalmente. Io sono diventato una roba diversissima da quello che da quello che io ti ho detto, che ho fatto. Insomma, è cambiata tutta. Il linguaggio, avendo questa eccedenza, ha una, come dire, eccedenza sulla replica pura e semplice dei fatti. Il linguaggio non può replicare dei fatti. Quando tu racconti qualcosa, inevitabilmente, che tu ne sia consapevole o no, aggiungi qualcosa a quello che ti è successo. Per il solo fatto di raccontarla da un punto di vista particolare, escludi delle cose, ma ne aggiungi altre. E insomma, questa è l'origine del mito. Tutte le culture orali hanno un sistema di narrazioni su esseri naturali, esseri umani, animali, piante, e soprannaturali, inventati, non sono ancora dei veri e propri, ma sono esseri soprannaturali. Una delle figure più interessanti, più divertenti, è quella che in alcuni casi si chiama il Dio, ma non è un vero Dio, è il trickster. Il trickster vuol dire il briccone, l'ingannatore, il truccatore, trick, trucco, no? Che è una figura che c'è, non proprio in tutte, ma in grandissima parte dei racconti mitici di tutte le popolazioni. Compare tra gli eschimesi, compare tra i nativi del Nord America, del Centro America, del Sud America, non i Maya, non le tribù a lunga. Ed è sicuramente all'origine poi dei grandi sistemi mitologici, delle grandi religioni politeiste, per esempio indoeuropee, quella religione germanica, greca, latina, indiana, persiana, eccetera, eccetera, ma all'origine c'è questa figura. Questo trickster è tra i trickster più divertenti e più belli, c'è per esempio il trickster della tribù degli indiani Winnebago, che erano una tribù che viveva all'incirca vicino ai Navajos, in quella zona lì tra il Messico, la California, il Messico del Nord, insomma quella zona lì del sud del Nord America, della parte intorno al Golfo del Messico in qualche modo, che sono state studiate negli anni 40-50 da un grande antropologo polacco che era andato lì, che si chiamava Paul Radin, e poi ci hanno scritto insieme un libro. Diciamo Radin, che aveva raccolto queste storie, e uno dei più grandi studiosi di mitologia di questo libro, che si chiamava Paolo di Chereni, un ungherese che ha studiato particolarmente la mitologia greca, e uno psicologo, uno psicanalista allora in gran voga, il più importante discepolo di Freud, appena stato da Freud, che si chiamava Carl Gustav Jung. Radin, Chereni e Jung scrivono questo libro che si chiama appunto Il Dio, il briccone divino. The God Tricks, non mi ricordo il titolo originale com'è, molto, in cui raccolgono queste storie e poi le commentano. Sono storie di un personaggio buffissimo, meraviglioso, certo che è un dio perché ha delle capacità che, come dire, gli uomini hanno, però vive insieme con gli uomini, ha rapporti con gli uomini, per esempio vede una indiana, una donna india che sta lavando i panni dall'altra riva del fiume. Questa storia delle donne che lavano i panni è un archetipo, ormai è rimasta così perché si trova anche nel porno contemporaneo, quindi, però già si trova anche lì, cioè, c'era allora lui che cosa fa questo trickster? Srotola il suo pene, che lo srotola perché lui è, cioè, ce l'ha, lo porta arrotolato sulle spalle, perché cerca di così, ma lo srotola e lo manda sul fiume, no? Quindi hai questo pene che è come un serpente marino cammina sul fiume e si scopa la bella lavanderina dall'altra parte del fiume. Insomma. Allora questa è una storia, oppure la storia bellissima del perché, scusate, sono tutti argomenti di questo tipo, ma sono un po' così, ma insomma, perché il buco del culo c'ha le grinze, perché il buco del culo è grinzoso, c'è un'origine, perché in queste storie ogni cosa c'ha un'origine, sono storie bellissime, guardate, che però per loro hanno un senso, adesso noi le pigliamo per ridere perché siamo, siamo scienziati dalla scienza eccetera, ma per loro erano, era quello che dava senso. Allora, perché non solo questo trickster ha il pene così autonomo, lungo, poi se lo può tagliare, perché poi c'è un'altra storia in cui uno scoiattolo gliene mangia un po', perché lui lo infila dentro a un tronco d'albero, c'è uno scoiattolo che glielo mangia. Ma la storia del buco del culo è bellissima, perché questo trickster si caccia, va a caccia e caccia 4-5 galline selvatiche, voi fate conto, fagiani, galline faraone, non proprio galline come le nostre, ma galline con un bel piumaggio, così eccetera, grosse, così eccetera. Tutto contento, però sono troppe, si è stancato a cacciarle, torna nella sua tenda e gli viene sonno, quindi non le mangia subito, no? Non dice, vabbè, cosa faccio? Però se mi addormento, c'è un casino, me ne rubano, le seppellisce, cioè scava un buco sotto la tenda e le seppellisce, però cazzo, in giro c'è la volpe, che ovviamente come nelle cose medievali, la volpe è un animale molto molto astuto, perché la volpe mi frega. Allora, diciamo, però fatto così, io dormo, ma il mio buco del culo può anche stare sveglio. E allora parla col buco del culo e gli dice, senti buco del culo, allora mi raccomando, adesso io dormo, tu fai la guardia, se viene la volpe, mi raccomando, svegliami, così cerchiamo fuori, perché sta qui, non so la volpe, se arriva qua, lei scava, trova le galline, sicuro, quindi va bene. Lui si addormenta tranquillo perché c'ha un guardiano che è il suo culo, che deve fare la guardia alle galline. Ovviamente il culo del trickster si addormenta tanto quanto lui, arriva la volpe, la volpe è stronza, non solo trova stronza, per cui scava, trova le galline, non le mangia così, le mangia dall'interno, quindi se le mangia tutte e gli lascia tutto l'esterco, le più, però sono vuote dentro, perché sono tutte e quattro, tutte e cinque, se le mangia. Dopodiché le rimette sotto, le seppellisce, e se ne va via tutta contenta, perché si è rotta fuori la cosa di questo. Il trickster si sveglia, adesso mi mangerò le mie belle galline, una frase, si tira le galline, a un punto dice, eccola qua, ma com'è leggera sta gallina, cosa è vuota? La seconda è vuota, la terza è vuota. Allora, che oh, ma che, qui è stata la volpe, evidentemente, oh, che cazzo hai fatto? Mi spiace, non so che cosa. Ma sei uno stronzo, piglia un tizzone ardente e per punire, certo, per punire il buco del culo, gli infila questo tizzone ardente nel buco del culo. Ed ecco, questa è la creazione per cui il buco del culo c'ha lì. Cioè, questa è una tra le poche che mi ricordo. È stata una delle letture più esilaranti che abbia fatto, cos'è stato, ho letto ormai 30 anni fa, quando mi sono messo a studiare un po' di cosa? In questo libro di Carl, di Jung, di Rabin, Jung, credi, il briccone di vino, credo sia ancora in giro. Rabin, Jung, Kereni, sapete come si scrive, Kereni, certi termini, Caroli Kereni, Jung, sapete come si scrive, Rabin. Rabin è l'antropologo, Jung è lo psicologo, Kereni è lo studioso di miti, e tutti e tre insieme li sono messi per commentare, però ci sono anche le storie, sono circa metà del libro, le dite anche il resto, però non solo le storie, perché poi è bello, adesso io vi ho raccontato le storie per invogliarvi a, ma chi vuole, cosa. Allora, vedete che il linguaggio è in grado di fare questa cosa, è in grado di costruire delle narrazioni, dei racconti, anch'essi naturalmente hanno, esercitano sugli esseri umani una sorta di fascino, certo, ma è molto diverso, pensateci un po', è molto diverso il fascino che esercitano degli artefatti che io vedo con la vista e che sono simili a degli oggetti naturali, rispetto a delle cose che io sento raccontare, che io racconto, che io e che sono, come dire, l'immagine ha un'origine e una prima è un primo impatto sulla vita che non è direttamente legato alla vita quotidiana. Posso essere l'oggetto di un rito, di una invocazione che io faccio a qualcuno, ma di per sé il linguaggio invece, anche quando lo si piega al racconto di queste storie fantastiche, fantastica, io so sempre però che ha un'altra, come dire, funzione. La prima funzione del linguaggio, non l'unica, ripeto, ma per esempio nei suoi rapporti con la tecnica, l'importanza del linguaggio sta nel fatto che il linguaggio è, siamo in una cultura orale, quindi non abbiamo scrittura, non abbiamo, la tecnica è un insieme di procedure che si sono state scoperte per fare certe cose, per produrre certi oggetti, come si scheggia una pietra, come si caccia un certo animale, come si costruiscono delle trappole, come si costruisce un arco, che prima, o come si costruisce prima dell'arco, che è una cosa relativamente recente. Recente vuol dire che avrà diverse decine di migliaia di anni, più o meno l'età di Lascaux, forse un po' di più, insomma. Ci sono già quelli con l'arco a Lascaux, quindi vuol dire che c'era già l'arco 38.000 anni fa, ma prima c'erano i propulsori, cioè delle specie di robe cave in cui si infilava dentro il bastone, si attaccavano al braccio e, diciamo, la lancia, e venivano usati per scagliare. Ci sono tutte le cose che noi sappiamo dagli oggetti che abbiamo trovato, che hanno trovato, diciamo, gli archeologi e i paleoantropologi. Ci sono già degli aghi di osso 100.000, 120.000 anni fa, dei pezzi di osso traforati, quindi vuol dire che c'erano delle fibre vegetali, c'erano già le tecniche, hanno anche prima dell'agricoltura, certo ci mettevano un casino, millenni e millenni per cambiare, per, come dire, maturare, perché non c'era nulla di simile alla nostra tecnologia moderna, che invece è accelerata, deve cambiare per forza di cose ogni 2, 3, 5 anni, o 20, 30, insomma, all'epoca ci mettevano migliaia di anni per cambiare. C'è l'invenzione della ruota. Allora, come si fa? Che differenza c'è tra gli esseri umani e gli altri animali? Non è che gli altri animali, per esempio le scimmie, non siano in grado di utilizzare degli attrezzi o degli utensili, sono in grado anche loro di farlo. È stato fatto questo esperimento, metti uno scimpanzé sotto un albero molto alto per lui e troppo liscio per arrampicare, o su un palo come dire, metallico, su cui quindi non può arrampicarsi, e gliela metti troppo in alto e gli lasci vicino dei rami di lunghezza sufficiente. Prima o poi lo scimpanzé prende il ramo lungo e dà delle botte alla banana per farla scendere. Questo è un utensile, no? Moltissimi animali sono in grado di fare delle cose di questo tipo, ma mentre, per esempio, diciamo, l'esempio più famoso è quello delle dighe costruite dai castori, i castori costruiscono le dighe. Ma anche dei nidi. Sì, le cose nidi. Allora, però nessun animale, nessun uccello insegna ai propri figli come si costruisce un nido, nessun castoro insegna ai propri figli come si fanno le dighe. Questi comportamenti sono totalmente inscritti dentro il DNA, dentro il codice genetico di queste specie. Ad un certo punto, collegato con un impulso sessuale nell'uccello, c'è l'impulso ad andare in giro, pigliare rametti, metterli insieme e fare questa cosa, ma diciamo, l'uccello è totalmente inconsapevole del perché fa quella roba. Poi una volta che la fa, già metto qua le uova, le faccio qua, ma non è che costruisce quell'oggetto, non c'è nessuna intenzionalità nel fare, come non c'è nessuna intenzionalità nel castoro, nel costruire la diga, non costruisce la diga perché pensa a cosa serve, è una roba che fa parte del suo istinto, c'ha un istinto molto indirizzato in quel senso, lo scimpanzé no, lo scimpanzé non ha nessun istinto a prendere il ramo, tanto è vero che se la banana è alla sua altezza o sta su un albero su cui si può arrampicare, non prenderà nessun bastone e andrà a prendersela con le mani. Lo fa solo se messo in condizioni, quindi lo scimpanzé rappresenta, come dire, è un po', diciamo, diverso dal caso di sé, non c'è un istinto del ramo, c'è una capacità di capire diciamo, di cogliere l'opportunità, quindi è più simile a noi esseri umani. Che cosa c'è di differente tra lo scimpanzé e l'essere umano? La differenza fondamentale è questa: lo scimpanzé non dirà mai al proprio figlio: ah, guarda, ti potrà capitare in un prossimo futuro che qualche stronzo di sperimentatore umano ti metta una banana troppo alto, in quel caso guarda intorno, se trovi un ramo usalo, e così. Non lo farà. Ogni scimpanzé rimesso in queste condizioni probabilmente riscoprirà lui per conto suo questa cosa, perché non è poi così difficile. Quindi questo che cosa vuol dire? Due cose. Vuol dire, primo, che l'attitudine umana alla tecnica non è poi così straordinaria, è lo sviluppo di cose che stanno anche in altre specie animali. Però l'accoppiata tra la tecnica e, diciamo, l'accoppiata tra la capacità di utilizzare utensili e il linguaggio fa sì che l'essere umano è in grado di costruire questi utensili per scheggiare una selce come una pietra più dura e fargli un bordo tagliente. Ci vuole da un minimo di 6-7 ore di lavoro, perché non è facile trovare il punto giusto, a un massimo di anche un giorno e mezzo, due. È inconcepibile che nessuno scimpanzé si mette lì a dare botte su una pietra per... Chi fa questa cosa vuol dire che ha pensato, c'è quella, diciamo, idea della capacità progettuale, di prevedere, cioè è stato in grado di immaginarsi come sarebbe quella pietra se qualcosa gli togliesse quella parte superflua e creasse una linea tagliente sul bordo, un bordo tagliente, e quindi si mette lì e lo fa. A cosa serve il linguaggio? Fra le tante cose, serve a raccontare a tuo figlio: guarda, ci sono queste pietre qua, le abbiamo chiamate così, si chiamano selce, e guarda che se trovi un'altra pietra più dura di questo tipo, di quell'altro tipo, e gli batti contro in quel modo particolare, ti metti lì e cerchi, e trovi, prima o poi trovi il punto giusto e l'inclinazione giusta con cui dare la botta buona, cominceranno a staccarsi delle schegge. Se stai lì dopo un po' e non ti rompi i coglioni per troppo tempo, dopo un po' vedrai che ti viene il bordo tagliente. Il linguaggio serve a tramandare la tecnica da una generazione all'altra. La tecnica è un insieme, diciamo un protocollo, chiamiamolo, un algoritmo, un insieme di algoritmi o di protocolli di fabbricazione di certi oggetti o di intervento in certi processi naturali, trasmissibile alle generazioni successive tramite il linguaggio. Ovviamente nessun altro animale ha il linguaggio, quindi nessun altro animale riesce a trasmettere un insieme di protocolli di questo tipo alle generazioni successive. Il linguaggio inevitabilmente si porta con sé questa impressione, questa, no? questa caratteristica di quotidianità, è qualcosa che serve per, è uno strumento per intervenire nel mondo. È uno strumento, ripeto, troppo potente, quindi è come il cannone per sparare a un passerotto. Una volta che hai uno strumento così potente ci fai anche altre cose, ma intanto quelle le fai. Quindi anche le altre cose che tu fai, tipo raccontarti le storie intorno al fuoco e costruire i miti e costruire questi esseri mai visti ma immaginati che hanno un cazzo lungo 5 metri e che te lo porti arrotolato sulle spalle e che fanno tutte queste strane cose qua, certo, ha qualche cosa di comune con il bisonte, guardare la caverna, ma sono, come dire, usi uno strumento che è meno straordinario, che è meno magico, che non ha questo aspetto così magico, può assumere un aspetto magico, certo, e poi a poco con lo sviluppo, probabilmente questo non lo sappiamo, forse anche in modo molto antico, è chiaro che gli esseri umani, come anche gli animali, sono tutti individui diversi, l'uno dall'altro, hanno caratteristiche diverse, quindi sicuramente come c'è tra i lupi il maschio alfa, che è alfa perché è più bravo a cacciare, è più forte, è più veloce, ci vede prima, eccetera, e quindi è il corpo predominante, quindi si scopa tutte le femmine prima lui e degli altri, eccetera, crea queste cose qua, perché i maschi alfa così fanno, tra i lupi, dico, tra altre cose, così tra gli esseri umani ci saranno anche quelli che sono capaci, proprio per loro, per questioni di, virgolette, natura, di usare meglio il linguaggio di altri. E quindi non di inventarsi da soli le storie, perché queste storie si inventano collettivamente, sono il risultato di generazioni e generazioni, si affinano di volta in volta, poi arrivano a quando così sono arrivati a un sufficiente grado di complessità, magari si fermano per un po', però poco a poco cambiano, nessuno mai. E quindi non solo ti tramandi con il linguaggio le tecniche di come scheggiare la pietra, di come costruire l'arco, di come accendere il fuoco e tutte le cose che anche quando poi viene l'agricoltura, le cose aumentano, perché l'agricoltura è una tecnica molto più complessa della caccia e della raccolta, però anche quella a lungo, prima che arrivi la scrittura, c'è soltanto l'oralità per tramandarla. E quindi tu devi averla sentita dire tante volte da tuo padre, da tuo nonno, perché quando è ancora vivo il nonno, che non, tra esseri, tra esseri cioè la vita media, come voi potete ben capire, in condizioni del genere, era molto più bassa di quella attuale, quindi forse i nonni ce n'erano pochi all'epoca. I nonni cominciano ad avere un ruolo, qualcuno sicuramente c'era, quelli non dire c'erano, insomma il ruolo sociale del nonno c'è solo con l'agricoltura, insomma, dove l'agricoltura è il primo momento in cui la vita media dell'uomo si allunga, insomma. La vita media era di 30 anni. 20 no, ma 30, lo sai con. Ma perché potevi, perché poi c'erano le malattie che non avevi. Non c'era la medicina, insomma, non c'era la mutua, non c'erano ancora le altre medicine, ma poi insomma gli incidenti di caccia, un sacco di cose. Quindi però probabilmente c'erano quelli che hanno trovato anche, però siamo uomini, scheletri di esseri umani molto vecchi, non ne hanno mai insomma, trovato, il massimo erano 50 anni, forse erano già 50 anni, probabilmente, ma già ancora ai tempi degli antichi romani. Ai tempi del primo impero romano o dei tempi greci la vita media si aggira intorno ai 40 anni e uno come Platone, che è morto a 70, era già uno molto particolare. Pitagora si dice che sia morto a 100 anni, per dire, sarà una palla, però per dire, perché era una caratteristica, erano veramente eccezioni, c'erano evidentemente, perché non è che la vita media vuol dire, però insomma diciamo. Allora, oltre a essere uno strumento per tramandare le tecniche, il linguaggio è anche uno strumento per tramandare le storie, per tramandare i racconti, che a quel punto rappresentano, come dire, costruiscono l'identità della tua cultura. Tu, gruppo di diciamo cacciatori e accoglitori, voi dite, vabbè, ma allora non ci sarebbero mai state le grandi tribù, non è mica detto, in realtà poi noi sappiamo che storicamente ci sono, che non è che c'era un mito diverso per ogni gruppo di 50 persone, è che un po' di esogamia c'è, anzi, probabilmente l'esogamia è una delle, il fatto di sposare le femmine di altri gruppi e non del proprio, sicuramente il tabù dell'incesto, che è dubbio, ma insomma è una cosa che si trova presso moltissime culture, forse non in tutte, ma presso moltissime culture anche di tipo orale, non è altro che una codificazione tarda di una pratica che favorendo un maggiore rimescolamento del matrimonio genetico, ha fatto in modo che quei gruppi che la praticavano abbiano avuto condizioni di sopravvivenza maggiori di quelli che non la praticavano, non che c'è stato nessun progetto, come ovvio, ma con i meccanismi ciechi dell'evoluzione biologica è possibile che all'interno della umana, che comunque è stata a lungo, per molti anni, numericamente ristrettissima, probabilmente non c'erano più di 200.000 esseri umani in tutto il mondo all'epoca del consolidarsi dell'agricoltura, in tutto il mondo, dico 200.000, 1 milione al massimo forse, cioè ma proprio a dire tanto. Quindi con l'esogamia succede che alcune delle storie o dei frammenti di storie si siano trasferiti da un gruppo, da un piccolo gruppo di cacciatori raccoglitori ad un altro. E con una successiva azione di contaminazione, di contatto, questa storia mi piace, la racconto anch'io, eccetera, a poco si è costruito una serie di gruppi di nomadi, certo entro un territorio più o meno vicino, non troppo lontano, che condividevano che cosa? L'ossatura, o perlomeno gran parte, dei racconti, delle cose che si raccontavano intorno al fuoco. E che da un certo momento in poi hanno cominciato a essere raccontate per quelli delle diciamo, nuove generazioni che non li conoscevano, per i bambini, per i cose, quindi, e quindi si sono tramandati in questo modo. E hanno costituito probabilmente l'identità culturale di una tribù, quindi di un gruppo di persone che non direttamente vivono insieme, che sono sparpagliate anche in territorio, ma e che quindi condividono la stessa lingua, lo stesso diciamo, linguaggio, abitudini più o meno simili e soprattutto le stesse storie fondatrici. Queste storie diventano ad un certo punto il racconto della fondazione di quella certa cultura, di quella certa, diciamo, tribù. L'esclusività, l'effetto rinchiudente di queste storie è indubbio. La gran parte delle culture orali, in gran parte delle culture orali, o perlomeno in molti gruppi delle culture orali, i membri di una tribù chiamano se stessi gli uomini. Gli uomini. Noi, siamo noi gli uomini. Non, nel senso che quelli che parlano un'altra lingua eppure vivono 2 chilometri a fianco e ho dei contatti, li conosco, loro non sono uomini. Nessuna cultura dell'epoca orale è imperialista, cioè ha il desiderio di annettere le altre o di far diventare le altre come te, c'è un grande rispetto reciproco, però che la tua cultura sia meglio di quella degli altri, questa è una cosa abbastanza largamente diffusa. Non ha effetti discriminatori, certo, perché non vuol dire che poi faccio le lotte o le battaglie, poi ci sono state comunque, ci possono essere lo stesso, ma insomma, allora, ma adesso il nostro problema è cercare di circoscrivere la natura la natura e gli effetti del linguaggio nei confronti dell'immagine, perché questo è quello che voglio poi continuare. Penso che non andremo molto avanti, subito dopo Natale riprenderò questo tema per attualizzarlo, perché adesso l'abbiamo presa troppo lontana. Comunque, per concludere dunque con l'ultima cosa che volevo dirvi era: allora, certamente ad un certo punto si crea, e si crea abbastanza presto anche in culture orali, una particolare categoria di membri della cultura della tribù che sono più capaci di altri di raccontare le storie e a cui quindi si, diciamo, demanda, sono quelli che nella cultura greca orale, prima della scrittura, si chiamavano aedi o rapsodi. Quelli che andavano in giro e raccontavano il mito, raccontavano ormai cose che più o meno tutti sapevano, tranne i bimbi piccoli. Quando l'hai sentito per la quarta volta lo sai già. Però eri sempre, anche l'aedo o il rapsodo esercitava sui suoi attori un certo fascino. Perché? Perché con la parola, parola crea, al contrario della vista, che è un senso che, distanzia, distanza, proprio fare, io vedo le cose vicine o lontane che siano, ma insomma noi ci vediamo e voi sapete che io non sono voi e io so che voi non siete me, cioè poi possiamo, però insomma, c'è una certa distanziazione tra le cose viste. Già la mia, il fatto che io parli da 2 ore, eccetera, vi crea nelle orecchie, vi incatena un po', se non sono troppo noioso, poi si racconta pure qualche storiella piccante, cioè meglio ancora, ma insomma nei momenti migliori, anche quando vi racconto dei concetti difficili, se lo faccio bene, siete un po' presi, siete un po' affascinati, la parola crea il suono, per il semplice fatto del suono, il suono crea un ambiente che ci avvolge, Il bisonte sulla parete non crea un ambiente che mi avvolge, è un oggetto distante, sta lì. Mi meraviglia, mi affascina, quindi il suo modo è però diverso, però è qualcosa di distante. È per questo che può simboleggiare direttamente una dimensione, virgolette, divina o comunque religiosa. La parola non lo fa di per sé, lo fa per i contenuti. Certo, se io vi racconto la storia, supponiamo che siamo cristiani e che voi siete piccoli e che io sono il vostro catechista e sono molto bravo a raccontarvi i Vangeli, la storia di Cristo, eccetera, voi è il contenuto di quello che io vi dico, non la parola in quanto tale. La parola in quanto tale, a differenza dell'oggetto visivo, crea un ambiente in cui noi, in cui l'ascoltatore si immerge. È l'immersività, quella che oggi si chiama l'immersività. L'immersività, cioè, perché è così importante il 3D al cinema? È perché mi sono messo con i miei amici a scrivere un libro su Avatar. Perché il 3D al cinema rappresenta l'equivalente visivo dell'immersività del suono. Ciò che il suono fa di per sé, per il solo fatto perché sono onde sonore che si ripercuotono, che mettono in azione i rivelatori nelle nostre orecchie, e poi noi abbiamo associato, evidentemente abbiamo, quindi c'è l'associazione mentale, significato e significato puramente sonoro, ma da un punto di vista fisico il suono crea un ambiente che ci avvolge e di cui siamo tutti partecipi. Questa è, diciamo, una delle caratteristiche fondamentali della cultura orale, essere, diciamo, il fascino creato dalla parola e il senso di unità del gruppo che dà la come dire, parola. Attenzione, è una cosa che noi non possiamo comunicare, non possiamo esperire esattamente come. Ma c'è qualcuno che mi sta finendo lezione, ti chiamo io tra me. Cioè, se ti chiudo prima vuol dire che no, gnocco, deve continuare a chiamare. Allora, l'effetto che fa su di voi, su di me, su di noi, la parola parlata oggi non può essere lo stesso che faceva sui greci dei tempi di Omero, se mai esistito Omero, cioè prima della loro, diciamo, scrittura. Perché? Perché quelle, come non può essere lo stesso effetto sugli indiani Winnebago o su qualunque cultura orale. Perché noi comunque, certo, noi parliamo, ma c'è la scrittura oggi. Il fatto che la scrittura esista e che noi la usiamo, sia per leggere, per scrivere, eccetera, eccetera, ha creato comunque la rottura di questo incanto, l'incanto della parola parlata, cioè l'incanto che qualunque oratore oggi esercita su di voi è di gran lunga minore di quello che esercitava l'oratore ai tempi di una cultura orale. Nelle culture, diciamo, orali in cui la scrittura non c'è, questo incatenamento, la creazione di questo ambiente, diciamo, uditivo, fisico, che avvolge, è molto più forte. Noi, diciamo, all'epoca della, come dire, scrittura, ormai l'apparizione di oggetti come libri, riviste, eccetera, ci ha abituato al, come dire, distacco, a distaccare il contenuto, i concetti, le storie, le atmosfere, eccetera, dalla voce di uno che parla. Certo, c'è il teatro, c'è il cinema, ma sono tutte forme d'arte che sono all'interno di una cultura della scrittura, in cui la scrittura ha introdotto una distanza di tipo visivo. Perché? Perché ha omologato, in qualche modo, reso più simile l'esperienza di ascoltare una storia, l'ha resa uguale a quella di guardare il bisonte sulla parete di Lascaux. Cioè c'è la stessa distanza, devo tenere il testo qua, questo testo è sempre uguale, come il bisonte sarà sempre uguale. Il bisonte non risponde alle come dire, domande esattamente come non risponde il libro. Il libro ripete sempre le stesse parole, quelle che ha stampate lì. Quel bisonte lì mostra sempre, è sempre quello. La persona che parla, tu mi interrompi, dici scusi, è così, cioè c'è un dialogo, cioè, poi magari state zitti tutto il tempo, però c'è la possibilità, sapete che avete la persona di fronte che parla. Quindi, certamente in parte, ogni persona che parla ricrea l'antico incanto dell'oratore, dell'aedo, del rapsodo, ma non potrà mai essere più nello stesso modo, perché ormai abbiamo, diciamo, 5.000 anni di scrittura e 2.900 anni di alfabeto, da quello greco in giù, hanno creato in noi questa ironia, questa distanza, questa cosa, perché l'abbiamo. E le lettere su un libro, ma neanche i caratteri pittografici per un, diciamo, cinese, possono avere lo stesso effetto del bisonte di Lascaux, perché il codice non è quello della somiglianza e della comunicazione, ma è quello dell'astrazione. Quindi è in qualche modo un modo di tradurre visivamente il codice astratto e ironico della distanziato dal punto di vista arbitrario, convenzionale, della parola, del, diciamo, linguaggio. Però è tradotto, quindi, come vedete, è una situazione molto, molto complessa. La prossima volta, cioè dopo le feste di Natale, vedremo come l'avvento della scrittura abbia in qualche maniera posto un freno al valore magico, fascinoso, meraviglioso dell'immagine, come abbia addomesticato l'immagine per un lungo periodo, dall'invenzione della scrittura greca, della scrittura alfabetica in Grecia, oserei dire sino alla nascita del rotocalco. Poi, all'improvviso, nel giro di pochissimi anni, la fotografia prima, appena appena, poco poco, il rotocalco poi, il cinema poi, la televisione poi, internet non ne parliamo, hanno ribaltato molto spesso le cose e hanno riportato l'immagine a una centralità diversissima da quella che aveva prima, ma in qualche modo si sono, diciamo, comunque sia, l'equilibrio tra parola e immagine che la scrittura aveva a lungo assicurato. La scrittura è quella, è stato questo lo strumento che ha reso possibile imbrigliare l'immagine, perché ne ha assorbito parzialmente il codice, mantenendo però il suo carattere di trascrizione del linguaggio e quindi della possibilità di lavorare sull'astrazione del concetto, anche quando si raccontano storie, anche quando non si fa filosofia, nel linguaggio c'è sempre dietro il concetto in agguato, perché è la natura del linguaggio, perché è l'astrazione del suono che non ha nessuna somiglianza con le cose che descrive. Per il fatto di non avere somiglianza introduce una distanza concettuale, non di tipo percettivo. Attenzione, percettivamente il suono avvolge, ma la parola distanzia, perché dà l'idea di poter costruire un concetto, qualche cosa di, non ci sarebbe astrazione senza la parola, ma non ci sarebbe il dispiegamento dell'astrazione totale senza la scrittura. Non a caso la filosofia nasce quando c'è una scrittura. In Cina non nasce nulla di simile alla filosofia prima della scrittura, in Grecia la filosofia nasce nel VII secolo avanti Cristo, cioè circa due secoli dopo che è stato introdotto l'alfabeto. Tutto questo equilibrio dura per molti anni, molti insomma rispetto alla storia dell'uomo, pochi, ma insomma per 2700 anni, cazzo, 2006 circa, insomma, fino a quasi tutto l'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento si spezza questo, diciamo, come dire, equilibrio. E l'immagine che era stata in qualche maniera incatenata, inquadrata, padroneggiata, sfruttata anche, se volete, dal linguaggio parlato e soprattutto scritto, improvvisamente si riprende la propria forza e per una serie di fenomeni totalmente interni al mondo della, diciamo, scrittura. Le tecnologie sono figlie della scrittura, le tecnologie moderne. Peggio ancora, lo strumento che più di altri oggi è in grado di creare tutte le immagini possibili, è uno strumento che si basa su di un linguaggio, si basa su linguaggi, quindi su algoritmi e su linguaggi artificiali, certo, ma quindi su qualcosa di simile. Paradossalmente però questo, l'effetto maggiore che tutta questa cosa ha avuto è stato quello di sguinzagliare l'immagine, di aprirla. L'avrebbe fatto il cinema, certo, la televisione ancora, ma da un certo punto di vista internet non ha fatto altro che portare al parossismo questa tendenza alla proliferazione per ogni dove dell'immagine. Attenzione, proliferazione non vuol dire sempre significatività. Mai come oggi le immagini hanno significato così poco, non vogliono dire più nulla, incasso. Non a caso l'arte si è allontanata dall'immagine, da 50 anni l'arte non ne frega più dell'immagine, l'arte in quanto arte è un'arte concettuale, in cui le immagini ci sono, si usano, ma sono subordinate, non c'entra un cazzo, come cazzo si chiama quello che fa le mucche d'oro in formaldeide. Damien Hirst può costruire tutte le immagini bellissime, teschi di diamanti, cose, ma l'immagine non è l'immagine, soltanto il collezionista cretino, gli dà un sacco di soldi a lui, insomma, può dire, perché è un feticista dell'oggetto e dell'immagine, ma la forza di quelle cose, come la forza dell'opera di Catalan, non sta nei vetroresina che sono fatti, che li può fare un qualunque, come Jeff Koons addirittura prende insomma, soldatini di se stesso, di Ilona Staller o di qualsiasi altra cosa, eccetera. Non è quello che conta, è l'idea che c'è dietro, cioè è il concetto, è un'operazione, diciamo, linguistica. L'arte si è resa conto ben presto, da Duchamp in poi, quindi da un secolo fa in poi, che l'immagine stava, come dire, di grado, come stava andando. Infatti oggi l'immagine sta nella pubblicità, nella televisione, eccetera, ma non significa più nulla, quasi nulla, anche il linguaggio. Come dire, significa poco e sempre meno, perché, però, come dire, il linguaggio in qualche modo, proprio perché conserva questa sua natura di strumento di rappresentazione non somigliante, non convenzionale, arbitrario, in qualche modo sarà molto più duro a fare scomparire, diciamo, disaccoppiare, separare il concetto dal linguaggio, sarà molto, molto più difficile che separare il concetto dall'immagine. Di tutte queste cose vi racconterò nella prossima volta in modo migliore con le opere di Flusser, che è uno dei testi fondamentali di questo corso. Uno, qualunque di questi due libri va bene, o per la filosofia della fotografia o la cultura dei media. Io so già quale voi sceglierete, perché siete degli opportunisti, per cui so già quale sceglierete per un parametro. Però vi dico che no, mi fa divertire, vedete quello che volete, perché diciamo i concetti di fondo ci sono in tutti e due. Qua però sono espressi in modo più ricco, per cui va bene, basta. Buon Natale, ci vediamo, dimmi cosa mi devi dire. Avete firmato tutti, sì?